Questa idea nasce in realtà dalla collaborazione spontanea di artisti che, venuti a conoscenza della questione dei prati di Caprara, si sono offerti per testimoniare la loro solidarietà a questa azione civica creata appunto da un gruppo di cittadini formati in comitato che si chiama Rigenerazione Non Speculazione e che agisce per mantenere appunto a bosco, a verde, la parte dei prati di Caprara, che sono 46 ettari di verde nella zona più inquinata di Bologna, quindi un'importante risorsa per la salute cittadina. Quindi si è deciso di fare un presidio quotidiano, o quantomeno il più frequente possibile, per tutta l'estate, che lo sia un presidio nel modo più interessante, partecipato e significativo possibile. Quindi abbiamo pensato di farlo con spettacoli sia teatrali che musicali. La cosa interessante è che dal punto di vista teatrale abbiamo notato subito una partecipazione di grande livello. Ci sono attori che hanno già dato la loro disponibilità e hanno già fissato una data nel calendario, diciamo, in questo cartellone dei prati di Caprara, che sono Bruno Stori, un importante attore che, diciamo, ha fatto un po' anche la storia di alcune compagnie di teatro sperimentale come l'Enz Teatro di Parma, il Teatro delle Briciole e tante altre realtà importantissime. Sarà presente già da domani sera alle 19:30 presso il ponticello che passa sopra il Ravone in via Pietro Burgatti. Sostanzialmente è una traversa, una laterale di via Prati di Caprara, o la via che arriva fino a quel tunnel che si può trovare a lato appunto della via Emilia Ponente. Oltre a lui terrà un discorso sulla democrazia il giorno 30, ricordavo, 30 alle 19:30, sabato, quindi domani alle 19:30, ci saranno anche altri attori molto importanti. Ci sarà per esempio questa pièce che si chiama Stukas, dedicata a Pierpaolo Pasolini, che giocava a pallone dentro i prati di Caprara, ed è tenuta, creata, ideata e realizzata da Stefano Moretti, Giulia Valenti, da Paola Aiello, Enrico Baraldi, Nicola Borghesi alias Kepler 452, che è questa giovanissima realtà di teatro che si sta segnalando appunto con iniziative molto interessanti. E poi, così a seguire, nel corso di tutta la prima settimana di luglio ci saranno un'altra serie di eventi: Carlos Labandé, era musicista sudamericano, Von Washington, un bassista e chitarrista statunitense, esperto di black music, il Teatro delle Ariette, compagnia storica importantissima che sarà presente, poi ancora altri nomi, quello di Maurizio Cardillo il 12 con un spettacolo su Walt Whitman insieme a un fisarmonicista, e poi ancora Filippo Planker, attore, autore, regista, il 26 di luglio, Oscar De Summa, premio Ubu, e tanti altri che si aggiungeranno anche nel corso della creazione di questo grande cartellone che noi chiamiamo clandestino dell'estate 2018. E poi c'è anche un capitolo importante per noi del comitato, che è il concertone cosiddetto di sabato 7 luglio. Si tratta di un concerto che si terrà a Cade Mandorli, che vede una serata, un tardo pomeriggio, con a partire dalle 18 artisti del calibro di Elisa Genghini, cantautrice romagnola che dice di volersi ispirare a Joni Mitchell, notevolissima comunque nel suo repertorio, Iggy and His Blues, Giorgio Cavalli Blues Band, noto bluesman chitarrista, Fausto Carpani, che è un po' il cantore anche, diciamo, dei prati di Caprara attraverso una sua canzone di ricordi e tradizioni e memorie su questo importante parco che ha visto un po' di tutto storicamente, dalla presenza di Buffalo Bill fino a Pierpaolo Pasolini appunto, che ci giocava a calcio quando era ragazzo. Poi ci sarà Franz Campi e la sua band, gli Avvoltoi, i King Kong 5, che sono un gruppo cover di Manu Chao, e infine gli Schiantos. Questa serata, che cade lo stesso giorno del Gay Pride, noi invitiamo a seguire entrambe ovviamente le iniziative, il Gay Pride, e poi il nostro appello è: correte subito a Cade Mandorli e partecipate a questa serata organizzata da Massimo Magnani degli Schiantos e Alba Pisano, che si terrà fino a tardanotte dopo il concerto con un lungo DJ set. Quindi questo è il nostro appello: sabato sia Gay Pride che il concertone per i prati di Caprara Musicisti per il Bosco Urbano. Questa nutrita partecipazione di artisti di questo calibro, quindi, è in modo spontaneo, potremmo dire che sono dei volontari. È un indice della risonanza che la questione dei prati di Caprara sta avendo nella cittadinanza, possiamo considerarlo in questa maniera? Sicuramente, perché devo dire che raccogliere un cartellone di addirittura un mese è stato molto semplice, nel senso che inizialmente si pensava di organizzare qualche serata così, in modo molto semplice, anche perché lo facciamo in acustico, non c'è la possibilità di avere l'elettricità, quindi sono tutte condizioni che rendono chiaramente una performance molto più difficile. Eppure le richieste di partecipazione, le richieste addirittura di partecipazione gratuita per la causa sono state tantissime, da artisti, come ho detto, di grande valore. C'è una grossa partecipazione e che credo che sia il segno anche di una confusione da parte della cittadinanza, che è fatta anche di artisti e di persone di cultura, che si interrogano sul perché debba essere cancellato con una tale violenza un parco pubblico che potrebbe essere semplicemente ripulito superficialmente e reso disponibile in qualche maniera alla cittadinanza. Invece si è scelta questa via violenta di distruggere tutta l'area. Un capitolo a parte, se mi è concesso, è anche un discorso sul luogo dove si terrà, perché sarà vicino ai prati di Caprara, in un luogo che è significativo per noi, perché comunque sia è il luogo dove vivevano e vivono ancora alcuni pensionati, ex ferrovieri e operai, un piccolo quartierino dove hanno trovato abitazione anche i rifugiati giuliani dopo la seconda guerra mondiale, e è una zona in realtà sconosciuta, contesa, dove non arriva neanche il gas, per dire, e queste persone per vivere devono utilizzare mezzi di riscaldamento alternativi, e quando hanno saputo che noi cercavamo un luogo dove poter svolgere la nostra attività, visto che siamo stati sgridati, voglio usare questo piccolo eufemismo, alla polizia di Stato che ci ha intimato di non entrare dentro ai prati perché effettivamente è proprietà privata, allora noi abbiamo trovato questa soluzione alternativa con tutte le carte in regola e che ha trovato appunto un contesto estremamente significativo. Stanno creando anche delle piccole alleanze sul territorio, a dimostrazione che la progettazione urbanistica, che vuole con un tratto di penna cancellare molte realtà anche tradizionali, anche insediamenti che esistono da sempre, ci sembra appunto una politica che dovrebbe essere rivista in un'ottica diciamo meno speculativa e più aggregante.